Quindi, Nuoro ieri e oggi, secondo le sue esperienze. Allora io vi devo dire che allora sono venuto che avevo già compiuto i 6 anni e mi apprestavo a fare la seconda elementare, perché fino ad allora avevamo abitato all'Acolu, dove mio padre era veterinario condotto. Poi vinse la condotta di Nuoro e si trasferì nella città d'origine, andando ad abitare inizialmente a casa di mio nonno. Purtroppo mio nonno, nel giro di pochi mesi, morì e quindi si rese necessario andare a cercare una casa d'affitto. All'epoca non era facile trovare case, si trattava ancora di un periodo, come dire, del dopoguerra, la città era anche in crescita e non c'erano comunque abitazioni in numero sufficiente da poter trovare un appartamento. Quindi, in attesa che una casa di famiglia si liberasse, siamo andati ad abitare in queste due stanze, di cui una faceva la camera da letto e una era la cucina, priva di servizi igienici, salvo un servizio igienico di fortuna nel cortile dell'abitazione, che veniva utilizzata anche dai proprietari del resto della casa. Si trattava di stanze sotto tetto di cannicciato e tegole, quindi ancora un tipo di struttura, diciamo, quasi ottocentesco, quindi quelle che potevano essere le case proprio della Nuoro antica. Da lì però era molto comodo perché la scuola elementare, che era il caseggiato di San Pietro, uno dei quali, cioè, anzi due esistono ancora oggi, ma all'epoca ce n'era uno solo, e l'avevano raddoppiato. E quindi per me era facile andare a scuola anche a piedi. Sì, non mi accompagnavano perché ovviamente ero molto piccolo e non conoscevo la zona. Da allora ci siamo poi trasferiti in via Roma, in questa casa di famiglia che eravamo riusciti ad ottenere perché era occupata da inquilini che a loro volta non riuscivano a trovare alloggio, data la situazione di precarietà degli alloggi. E quindi mio padre aveva ristrutturato un tantino e siamo andati a abitare lì. Ma all'epoca via Roma non era come oggi, era selciata e le strade intorno erano tutte strade sterrate. Quando pioveva, via Roma diventava un fiume. Ma In che un anno fiume siamo? In che anno siamo? intorno al 58. Intorno al 58, quindi un fiume fangosissimo, torbido. E la cosa quindi è rimasta così per anni, ma mano a mano la città cresceva e anche molto velocemente. Io di questo ho percezione perché guardavamo sempre tutti gli anni le statistiche ed era un motivo di orgoglio e di onore sapere che la città era passata, che so, era cresciuta di 1.000-2.000 abitanti, perché dato che non era oramai un capoluogo già dal periodo del fascismo, era anche una posizione molto ambita per gli impiegati, per tutte le persone, anche i commercianti, e la crescita quindi era abbastanza rapida. Ora io non vorrei citare statistiche che non ricordo a memoria, ma diciamo che siamo passati forse da 5-6 mila abitanti di quando sono arrivato a Nuoro a una città che nel giro di una decina d'anni è diventata di 15-20 mila abitanti, fino ad arrivare in certi periodi forse oltre i 40 mila. Adesso la città è nuovamente in fase di riduzione. Però all'epoca questa crescita, che era di migliaia di abitanti in più ogni anno, era proprio un motivo d'orgoglio per tutti. E a quello faceva seguito ovviamente anche la realizzazione di opere, perché so, l'asfalto di Via Roma, che oggi è stato levato per riportare, non dico all'origine, ma riportare quantomeno a far emergere nuovamente i listoni di granito che servivano per il transito dei carri, perché i carri avevano il cerchio in ferro e quindi per poter transitare facilmente non dovevano passare sull'acciottolato, ma dovevano passare sul listone di granito. Quel listone, quando hanno levato l'asfalto, è stato recuperato e voi vedete ancora oggi i segni di come il martello demolitore li ha intaccati. li guardate, sono tutti quanti lesionati in longitudinale, ed è quello, perché non pensavano di recuperarli, l'hanno capito dopo che potevano essere una bella cosa. È chiaro che quindi la città in questa maniera ha visto crescere il numero delle scuole a dismisura, creare nuove scuole. Addirittura, se andiamo a vedere, ci sono delle scuole che non sono state mai ultimate, perché la programmazione della crescita della popolazione scolastica poi non è stata rispettata dalla realtà. E quindi molte scuole, voi le vedrete, che sono abbandonate già da oltre 30 anni e mai finite. Ne trovate nella zona di Via Verdi, ne trovate nella zona andando a Predestrada, così. Mentre le vecchie scuole, quelle diciamo del trentennio, degli anni tra il 30 e il 60, sono ancora esistenti, magari nelle stesse identiche condizioni, quindi non particolarmente agibili, che sono l'Istituto Poda, ma anche la scuola di San Pietro, e così. Oppure, che so, andiamo a vedere le magistrali e il classico, che sono tutte scuole costruite tra il 30 e il 50 massimo, anche quelle sono ancora nelle condizioni di origine, con poche migliorie, allora oggi. Ci ha parlato della casa in cui è cresciuto ed abitato. Può dirci qualche aneddoto interessante a riguardo? Sì, certamente. Questa casa, che mi pare che ve l'ho già descritta, era una casa estremamente semplice, con lo tetto fatto di canniciato, travi canniciato, tegole sovrastanti, e quindi una casa, come posso dire, piuttosto fredda. L'anno in cui siamo andati a abitarci era il famoso anno 56, quindi siamo andati a abitarci alla fine del 55, quindi verso novembre-dicembre del 55, e poi è capitata la famosa nevicata del 56, durante la quale la città è rimasta isolata per oltre un mese dalla neve. E quindi diciamo che la situazione era abbastanza difficile, perché il riscaldamento era un caminetto nella cucina, oppure il braciere per portarsi un po' di brace in camera da letto in modo tale da stemperare la temperatura. Ma il freddo era davvero pungente. Per giunta non esistevano i bagni, si trattava di uno stanzino messo nel cortile dove c'era sia no il water e una porta fatta con pochi assi di legno, e quindi se uno aveva bisogno di qualche cosa, di andare ai servizi igienici durante la notte, la cosa era abbastanza, come posso dire, problematica. Esistevano peraltro i vasi da notte, quindi ci si arrangiava. Era comunissimo usare quelli. Nel cortile io ricordo una scena curiosissima, proprio durante una di queste nevicate. Il padrone di casa era un muratore e i figli erano dei ragazzi decisamente più grandi di me, perché allora io avevo 6-7 anni, e questi erano ragazzi di 14-15 anni, forse anche di più, che gli facevano da manovale. E quindi avevano tutta l'attrezzatura tipica del muratore, fra cui la rete metallica per grigliare la sabbia. E avevano trovato modo di utilizzarla per catturare gli uccellini. La mettevano in bilico sostenuto da una canna, e la canna collegata con un filo. Sotto mettevano del grano, e quando gli uccelli andavano lì per beccare il grano, loro coglievano il momento migliore per catturarne quanto più possibile, tirando la canna, quindi facendo cadere la rete. Gli uccelli venivano poi, ovviamente, spennati e utilizzati per fare la polenta con gli uccelli, quindi come condimento. Ora, non credo che fosse un problema di economia rurale, quanto fosse un problema di fare una cosa gustosa e di farla, come posso dire, con i loro mezzi, quindi non andando a comprare al mercato, oltretutto, cosa forse anche abbastanza difficile a quell'epoca, doveva esserci pochissimo commercio. E quindi, se uno voleva trovare un condimento per la polenta, bisognava che se lo creasse da sé. si divertivano anche in questa maniera. Un divertimento forse non per gli uccelli, ma per loro di sicuro. Questa che stavamo dicendo è la situazione nell'inverno del 56. Poi per fortuna è venuta la primavera e la zona che era tra la chiesa di San Salvatore, come vi ho già detto, e la scuola elementare di San Pietro, all'epoca era pochissimo costruita, diciamo che era campagna prevalentemente, e si potevano vedere magari tracce di pietrame catastato per future costruzioni, tracce di fondazioni, quindi una campagna con delle trincee, con cespugli, quindi posto ideale per i ragazzini per andare a giocare e fare anche delle imboscate, delle guerre finte similari. All'epoca ragazzi ce n'erano molti, poi essendoci vicino alle scuole elementari, una volta finita la scuola, un divertimento era quello di scorrazzare in questi campi assolutamente liberi e senza recinzioni. In antico quel campo veniva utilizzato proprio come pascolo per gli asini domestici ed era una sorta di imbonzaio e contemporaneamente il pascolo brado di questi asinelli. E nel libro che ha scritto mio padre di racconti, voi trovate anche la descrizione di questi asini che poi venivano cavalcati dai ragazzini dell'epoca sua. Quindi stiamo parlando, Babbo era del 1910, quindi stiamo parlando di un'utilizzazione intorno al 1920. Rispetto al 56 siamo oltre 30 anni prima, diciamo, quindi, ma non più di tanto. Quindi dagli anni 20 fino al 56 quella zona è rimasta pressoché identica. Oggi invece è completamente costruita. E non c'è, forse qualche cortile può esserci rimasto in qualcuna di quelle case, qualche giardino, ma del campo di una volta non ce ne vede più traccia. Festività di ieri, cosa ci può raccontare al riguardo? C'è una festa che io ricordo di aver visto per diversi anni di seguito quando ero ragazzino e che oramai non se ne sente più neanche parlare, ed era la festa dell'uva. Ora, non so se fosse l'ente turismo o comunque, o forse il comune di Nuoro, sponsorizzava questa festa per stimolare l'utilizzo dell'uva come frutta e quindi anche forse per facilitare la vendita da parte dei produttori. E ricordo che quando abitavamo in via Roma, arrivavano questi carri carichi di uva all'impossibile e la distribuivano alla popolazione. Ognuno si poteva prendere un bustone d'uva, diciamo così, ed era uva pregiatissima, era quell'uva da tavola, grossa, profumata, che non lo so da dove venisse, ma certamente non era uva nuorese. Doveva venire dal Campidano o dall'Oristanese, immagino. Però era una festa molto celebrata perché naturalmente tutti vedevano l'occasione per approvvigionarsi di frutta senza doverla né pagare né cercare. Chissà, per diversi anni si è fatta. Altre feste che si facevano erano la festa degli alberi, che coinvolgeva tutta la popolazione scolastica. E andavamo. Annualmente questo si verificava, andavamo a piantare gli alberi in zone periferiche. Per esempio, la zona dove oggi c'è il fornitore della Solitudine, ci sono delle piante di quella pianta australiana, l'eucalipto. Sono sicuro che almeno una di quelle piante l'ho messa io. Perché la forestale dava le fitocelle. E sulla base di un qualcosa del ministro, mi sa che fosse Bacelli, che aveva creato questa festa degli alberi, tutte le scuole partecipavano alla piantumazione. In realtà, probabilmente qualche operaio era già andato prima a preparare le bucche e noi ragazzini andavamo con la piantina, una zappetta, e non facevamo altro che metterla in opera e chiudere nuovamente il fosso. Qualcun altro sicuramente si preoccupava poi di fare il resto delle operazioni anche di innaffiare. però se qualche cipresso, qualche eucalipto c'è ancora lì, è sicuramente l'esito di qualcosa fatto negli anni tra il 56 e il 58, direi massimo. Perché dopo mi sa che è andata a finire in disuso questa sorta di festa. Invece la piantumazione degli alberi nella zona che c'è tra Via Ricciusa e la strada dalla Madonnina in direzione di Orusei, che è la strada 129, no? La trasversale sarda, non fu fatta dai ragazzini nella festa degli alberi. Fu invece un'iniziativa di qualche ente, immagino il comune di Nuoro o forse la provincia, che decise di consolidare il versante dando un finanziamento per i disoccupati. E quindi alcuni disoccupati furono impiegati per mettere a dimora delle fitocelle in questa striscia di terreno che all'epoca era pressoché inutilizzata. Ora non so se fosse neanche proprietà privata o proprietà pubblica, però nessuno ebbe da dire perché tutto sommato mettere degli alberi era una cosa che veniva vista con un certo favore. Ora, quegli alberi sono cresciuti e tutta la zona sotto Via Ricciusa è piantumata grazie a questo cantiere di lavoro. Sì. Quindi questa piantumazione di Via Ricciusa deve essere avvenuta tra il 63 e il 65, grosso modo, perché faccio riferimento al periodo in cui noi stavamo costruendo la casa dove oggi abito, e all'epoca si trattava invece di una striscia di terreno quasi libera e che aveva un nome abbastanza strano in nuorese. Dunque devo cercare di ricordarlo. Bah. L'ho blocchinato così. Si chiamava in nuorese la striscia di terreno Arresida. Ora, mio padre dava un'interpretazione molto poetica perché diceva che voleva dire stormire di fronde. Ora, di fronde si trattava, ma probabilmente la cosa molto più semplice, si trattava di una striscia destinata alla produzione di farscame per allevare le capre casalinghe, sasmanaltasa, e quindi Arra, più o meno che zona riservata, caparra, no? Arra, Esida, Esida è sicuro che frascame. Quindi questo vuol dire che tutta questa striscia sotto la città vecchia era completamente occupata dalla boscaglia, dal pastugno. Si ricorda quando hanno riportato Grazia Deledda a Nuoro? Sì, ero un ragazzino all'epoca, però ricordo che eravamo andati, come dire, in massa alla Chiesa della Solitudine perché si doveva traslare la salma di Grazia Deledda. Ora deve essere successo qualcosa di grave, perché in realtà la bara di granito che era all'interno della chiesa correva voce che non fosse assolutamente abbastanza capiente da contenere la bara in cui si trovava Grazia Deledda. In realtà pare che il problema che si fossero posti, che si erano posti, era quello di un ossario e quindi di utilizzare l'urna per contenere le ossa di Grazia Deledda. Se non che la bara che arrivò da Roma conteneva un corpo praticamente intatto. E quindi l'operazione che avevano in mente di fare non si fece. Furono costretti a ricorrere a un escamotage che consisteva nello scavare una sepoltura di fortuna sul retro della chiesa in corrispondenza di dove si trovava l'urna di granito, però all'esterno. E per anni rimase una sorta di fossato a testimoniare la sepoltura che era avvenuta lì. Poi, negli anni recenti, quando la chiesa fu restaurata, so che venne riscavata la sepoltura e completata l'operazione così come era stata immaginata dall'origine. Quindi ora, grazie a lei, da riposa realmente nella bara di granito all'interno della chiesa.